9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 27 di ottobre. Grazie a tutti voi per coloro che ieri hanno mandato molti messaggi, molte richieste dopo la trasmissione con Giuminello Alvi. Mi ha dato molta soddisfazione, devo dirvi, una reazione, perché a volte temo, quando vado diciamo fuori dal mainstream, fuori dall'ordinario luogo comunismo, di proponendovi persone di cui ho grande stima, ma di cui conosco la posizione minoritaria, è una grande soddisfazione per me almeno constatare che riusciamo a suscitare il vostro interesse anche tra i più o tra i molti che la pensano diversamente rispetto a noi, un po' eresiarchi in materia di moneta, mercati, di disciplina della moneta e dei mercati. Oggi il tema è obbligato, praticamente. Il tema è quello di tentare di capire, per noi che facciamo informazione, e spiegare a voi i punti dell'accordo raggiunto verso le 4 questa mattina all'Eurovertice, e poi naturalmente, collateralmente, ma per noi quasi prioritariamente nell'attenzione della stampa italiana, il capitolo italiano, che però ha avuto pochissima, scarsissima attenzione nel Consiglio europeo, che si è limitato alla presa d'atto della lettera d'intenti italiana, perché come ovvio avevano priorità i punti aperti e caldi che bisognava chiudere, relativi a, al meccanismo salva stati, al meccanismo salva banche. E tuttavia ovviamente le reazioni dell'Italia in questo giorno, che è ancora concentrato sulle amare ferite che ci sono inflitte dal maltempo, va al côté italiano e a cosa c'è scritto in quella lettera, qual è la parte più significativa di novità, qual è il meccanismo politico al quale si è arrivati a quella lettera, che non porta la firma del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che non è d'accordo né sul fatto che non gli sia stata affidata la stesura, non è d'accordo sul fatto che le privatizzazioni contenute e indicate sono affidate alla individuazione da parte di una commissione che lui non ha mai voluto, e così via. Insomma, io devo dirvi la verità, prima preferisco spiegarvi quello che ho capito dell'accordo di questa notte a livello europeo, per poi passare alle reazioni dei nostri ospiti. Allora, il pacchetto su cui è stato raggiunto l'accordo parte da una cifra, una percentuale intorno al taglio, il cosiddetto haircut, il taglio dei capelli, al taglio del interessi e capitali da parte di coloro, banche, non stiamo parlando retailers, ma banche detentori di carta pubblica greca, e la percentuale di questo meccanismo volontario di rinuncia è del 50%, per un totale di circa 100 miliardi di euro. A questi 100 miliardi di euro si aggiungono 30 miliardi di ulteriore abbattimento come contributo dell'Eurozona. La Grecia si è impegnata, a fronte di questo ridimensionamento del suo debito pubblico, che lo porta, secondo l'accordo di questa notte, intorno al 120%, cioè intorno alla quota italiana di rapporto al PIL, si impegna ad accrescere ulteriormente le privatizzazioni rispetto al programma già molto impegnativo, e su cui in ritardo, a dire la verità, scadenzato dall'inizio di quest'anno. Dopodiché, secondo punto è quello che riguarda invece l'FSF, il fondo europeo di stabilizzazione finanziaria. Il fondo europeo di stabilizzazione finanziaria arriverà, come era stato ampiamente previsto, ad un rapporto di leva finanziaria rispetto alle sue dotazioni, che sono di poco superiore ai 400 miliardi di euro, non superiore a 4, e questo rapporto di leva quindi lo porterà ad avere, diciamolo così, una massa di fuoco superiore ai 1000 miliardi di euro. 1000 miliardi di euro, per capirci, è una quota tale da garantire all'FSF possibilità di esercitare sia la parte dell'impegno che lo riguarda per il sostegno diretto agli stati che sono sottoposti a programmi di aiuti, quindi Portogallo, Grecia, naturalmente la coda del salvataggio irlandese ed eventuali richieste ancora non concordate con la Spagna, sia alla sua azione secondaria e concorrente, che sempre di più sostituirà quella della Banca Centrale Europea nell'acquisto e nel sostegno di titoli di Stati in difficoltà sui mercati secondari, perché è questo il compito aggiuntivo che da ottobre FSF è chiamato a sostenere, liberando sempre più la Banca Centrale Europea da un compito che ha dovuto esercitare nel momento iniziale dell'emergenza, e che è un compito improprio perché inquina il meccanismo della politica monetaria e della creazione della base monetaria da parte della BCE. Uno dei punti su cui Trichet più ha litigato con i tedeschi, che gli hanno imposto di farlo, perché così facendo oltretutto si aggirava il vincolo posto in Germania dalle clausole di recepimento del Trattato Europeo, per il quale quando si mette mano al portafoglio i tedeschi devono andare in Parlamento a farselo votare. Se lo fa la BCE ovviamente non vota nessuno, è meno chiaro all'elettore. In ogni caso un range di risorse di queste proporzioni, cioè 1.000 miliardi di euro, non consente all'FSF di avere un'operatività tale da affrontare eventualmente sostegni con un intervento straordinario di aiuti all'Italia, ove se ne presentasse la necessità, cioè ove i nostri spread andassero oltre la quota 400, purtroppo già molto alta, ma andassero verso quota 500-600, in ogni caso il meccanismo deliberato questa notte è tale da dover obbligare all'Europa a un nuovo passo avanti. Questo l'accordo di stanotte non comprende, cioè, un'entità di risorse tale da poter fronteggiare una crisi del primo euro emittente, quali siamo noi, rispetto all'entità del nostro debito e del nostro PIL. Non entro nei tantissimi dettagli tecnici che mi rendono incerto, perché il meccanismo non dovrà essere messo a punto nelle prossime settimane. C'è un problema grosso che riguarda la parte di questo accordo che è diretta alla ricapitalizzazione del sistema bancario per poco più di 100 miliardi di euro. Bisognerà vedere come questo si incrocia con l'anticipazione dell'obiettivo Tier Core 1, il rafforzamento cioè del coefficiente patrimoniale di Basilea 3, perché a mia opinione l'effetto di un taglio volontario del 50% sulle banche, la necessità quindi di ricapitalizzarle, se davvero anticipiamo, come sembra emergere dai primi particolari, l'obiettivo di Basilea 3 previsto entro 3 anni, lo anticipiamo all'anno prossimo. La mia opinione netta, ma la mia opinione come quella di tutti gli osservatori di tecnica bancaria europea, è che i 100 miliardi di ricapitalizzazione bancaria siano troppo pochi, perché l'effetto del taglio oltretutto lo dovremo valutare sulla valutazione a rischio di asset illiquidi complessivi per ogni assetto patrimoniale di grande banca, lo dovremo valutare con come balleranno i CD bancari sui mercati da questo momento in poi. Quindi il mercato è chiamato a un riprezzamento generale sulla base delle decisioni assunte stanotte al vertice europeo. Per quello che riguarda l'Italia, come vi ho detto, è una presa d'atto. Avrete letto e ascoltato dai telegiornali e sui giornali stamattina che i punti di fondo di questa lunga lettera, che ripeto non ha la firma del Ministro dell'Economia, il capitolo più rilevante nuovo è quello di un nuovo passo avanti nel pacchetto lavoro, per capirci, perché si tratta di mettere mano a una materia molto infiammabile come quella dei licenziamenti per ragioni economiche. Quindi si entra ancora di più nel merito dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e su questo Raffaele Bonanni subito ha detto: questa è una materia incandescente, il governo dovrebbe fare altre cose piuttosto che pensare affrontare in maniera unilaterale, non concertata, misure delicatissime. Il problema è che però l'appunto della Commissione Europea ci chiedeva di entrare in questa materia, come chiedeva la riduzione del numero e addirittura delle retribuzioni dei dipendenti nel pubblico impiego. Per il pubblico impiego, altro punto tra i più delicati, accenna all'attuazione del meccanismo di mobilità nella pubblica amministrazione, il che significa un meccanismo straordinario di riduzione delle piante organiche della pubblica amministrazione, al termine del quale ci sono poi gli strumenti ordinari di sostegno al reddito, cioè la cassa integrazione, ma l'uscita dal perimetro della pubblica amministrazione. In realtà questa cosa era già implicita nella manovra estiva, ma a questo punto si prende un impegno con scadenza per la sua attenzione. Questo è un secondo capitolo molto delicato perché fa insorgere i sindacati. sindacati. Per il resto invece giudizio mio, il di Libera e Liberista, io sono totalmente deluso per l'assenza di misure per l'azzeramento della pensione di anzianità entro 2 anni. L'obiettivo che qui si ricorda nella lettera, e cioè il fatto che arriveremo prima dei tedeschi ai 60 anni di attuazione del tetto di vecchiaia, è un obiettivo che non significa molto, perché noi abbiamo 2,5 punti ogni anno in questi anni di maggiori oneri per il fatto che mandiamo in media la gente oggi in pensione molto prima degli altri e la mandiamo con un'attesa di vita maggiore, e su questo che bisogna intervenire. Dire che noi alzeremo per l'effetto dei meccanismi automatici l'età media di vecchiaia prima dei tedeschi non risolve il problema per cui siamo chiamati a questo intervento da parte dell'Unione Europea. Come, e ho finito, è fortissima la mia delusione per quello che invece molti giornali addirittura presentano come se fosse una grande novità. Mio Dio, privatizzazioni per 5 miliardi di euro l'anno per 3 anni, oltretutto indicandole nei beni pubblici in controllo dalla pubblica amministrazione locale, quindi con forti percentuali di impugnativa. Comunque qui ci sarà una commissione, la famosa commissione non voluta da Tremonti, si inizia a dismettere. La realtà è che su 500 miliardi di euro di patrimonio cedibile o da mettere a reddito per la sola parte immobiliare, voi capite che 5 miliardi l'anno sono quelle che in termini inglesi si definiscono peanuts e in italiano io lo definisco una presa in giro. Eppure questo sembra già che sia chissà che cosa. È inevitabile che sarà il capitolo sindacale quello a far infuocare il dibattito. Vi è una linea da parte del governo, puntare su questo per far vedere chi sono i cattivi, e lo abbiamo già visto con l'articolo 8. So con questo di deludere molti che invece pensano che bisogna stare abbracciati e stesi su questa linea. La mia opinione è che su pensioni e privatizzazioni e liberalizzazioni si può e si deve fare molto di più. Quella linea delicata che serve a indicare i cattivi e a dividere è una linea molto pericolosa, per quanto io vorrei la piena liberalizzazione del mercato del lavoro, ma è chiaro che questo può essere, a essere un po' in malafede, l'intento di questa lettera. Allora, mi taccio. Abbiamo come ospiti in questa prima parte della trasmissione, spero ci possano seguire, innanzitutto Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera, punto di riferimento per noi mosche bianche, liberali e liberiste. Buongiorno e grazie a Piero Ostellino. Buongiorno, buongiorno. Allora, posso chiederle qual è la sua prima impressione dell'accordo europeo e dell'atteggiamento italiano, della lettera, e di che cosa lascia aperto e fa intendere di come svolgeremo il nostro compitino europeo? Beh, io non sono un economista e quindi non sono in grado di fare un discorso di carattere economico, però faccio un discorso di carattere, chiamiamo così, politologico. E cioè sta succedendo una cosa molto interessante. In altri termini, l'Europa, ma soprattutto l'Italia, stanno cercando di uscire dal Novecento. Il Novecento è stato il secolo del trionfo del comunismo, è stato il trionfo del costruttivismo democratico, cioè del keynesianesimo, del New Deal, eccetera, eccetera, che ci ha portato alla situazione attuale. Cioè ci troviamo di fronte al fatto che si pensava che la spesa pubblica fosse il volano dell'occupazione, dello sviluppo, che l'intervento dello Stato negli affari economici fosse salutare. Ci troviamo con un centinaio di milioni di disoccupati, ci troviamo con alcuni stati sull'orlo della bancarotta, ci troviamo di fronte al fatto che si cerca o si spera di riesumare un minimo di mercato e un minimo di liberalizzazioni per uscirne. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la crisi europea e la crisi italiana in modo particolare sono state e sono ancora delle crisi di carattere culturale. Cioè si è immaginato un modello di sviluppo che si affidasse alla mano pubblica e si scopre che la mano pubblica ci ha portato sull'orlo della catastrofe. Non siamo ancora usciti dal Novecento, e il fatto paradossale è che ne sono usciti invece i paesi che stavano in quell'area dell'Europa che chiamavamo l'Est. Cioè il crollo del comunismo ha consentito a questi paesi di uscire dalla logica del Novecento. Noi non abbiamo avuto nessun crollo, tranne la minaccia di quello attuale, e quindi non siamo ancora usciti dal Novecento perché non abbiamo avuto ancora un trauma. Ecco, forse quello che sta accadendo e i tentativi di evitare il trauma sono proprio il trauma di cui abbiamo bisogno, cioè il fatto che ci si renda conto che se non si ripristinano delle regole sane di economia, di mercato, si finisce nel baratro. Ecco, questo a mio avviso è quello che sta accadendo. L'Europa sta cercando di trovare una soluzione e sta cercando di trovare una soluzione attraverso, diciamo così, la mano pubblica ancora, perché per salvare le banche, la ricapitalizzazione delle banche, i quattrini messi a disposizione dall'Europa per questo, questo sono. Però contemporaneamente si prende atto del fatto, e qui sta la lettera italiana alla Unione Europea, che si deve ritornare ad una logica di mercato piuttosto che una logica di dirigismo e di statalismo. Questo a mio avviso è l'interpretazione, diciamo così, politico-culturale di quello che sta accadendo. Ora io ti chiedo se è possibile di restare con noi per commentare, perché ci sono i nostri ascoltatori che già insorgono, soprattutto come inevitabile per la parte relativa alla promessa di attuazione di licenziamenti più facili per ragioni economiche nelle imprese e per messa in mobilità con uscita dal perimetro della pubblica amministrazione dei dipendenti pubblici, che come immaginavo è la parte che più fa reagire tutti, insieme all'assenza di costi della politica. Naturalmente l'Europa non ci chiede i costi della politica a tagliare, perché sa che l'ammontare è non consistente rispetto al totale di ciò che dobbiamo. È ovvio che un governo dovrebbe dire che li farà e dovrebbe farli più che dirlo all'Europa, ma questo per dire con i nostri ascoltatori che protestano. Abbiamo con noi Adriana Cerretelli, e ad Adriana Cerretelli chiedo innanzitutto, ringraziandola, perché ovviamente chi per mestiere segue le cose europee ha fatto le 5 la mattina, quindi stamattina è un po' problematico continuare a chiedere la continuata ai nostri colleghi. Adriana Cerretelli, una prima osservazione da parte tua sul complesso degli accordi sul salva Stati e salva banche, e anche una qualche osservazione su ciò che non è stato centrale, cioè il recepimento della posizione italiana, da parte tua. Ma io trovo che, come al solito, quando arriva sull'orlo del baratro l'Europa fa dei gesti, fa anche dei gesti concreti, e penso che questo sia stato uno di quei momenti. Questa volta si era arrivati davvero sull'orlo del baratro, non se ne parlava, ed è per questo che la situazione era ancora più grave. Allora, la domanda naturalmente è: basterà questo nuovo intervento a convincere i mercati? Io penso che sul piano quantitativo il gesto ha un certo senso, ma io credo che, come è da sempre in questa crisi, sia il gesto politico quello che manca ancora. Dietro di queste 10 ore di negoziati, Francia e Germania hanno veramente avuto dei momenti di tensione incandescente, proprio perché anche in questa partita non sempre i loro interessi sono coincidenti. E quindi io credo che la via oramai sia quella di procedere, se si riuscirà, ma non lo so, verso la cosiddetta unione economica, quella diciamo che è ormai avviata, ma soprattutto quella politica, cioè ritrovare una visione comune, una volontà comune di fare davvero l'Europa, perché questa moneta comune mi sembra che non riesca a stare in piedi senza tutto il resto che normalmente fa di contorno a una moneta. E questa crisi io trovo che sia proprio, diciamo, mette il dito sulla piaga congenita della moneta unica. Allora, si riuscirà o non si riuscirà? Non lo so. Io temo che, diciamo, certo, l'Italia è la grande minaccia sulla tenuta della moneta unica, ma questo lo si sapeva fin dall'inizio, perché siamo grossi. Ma la mia sensazione è che questo accordo sia importante perché in questo momento tampona una crisi peggiore, cioè la Francia che sta dietro. Qualora fosse la Francia sulla prima linea, la moneta unica non terrebbe, anche perché, al contrario dell'Italia, che magari mugugna, magari ritarda, magari temporeggia, ma alla fine si adegua, la Francia non è questo genere di paese, e quindi la Francia spezzerebbe tutto. È vero che gli interessi in gioco sono talmente grossi, l'economia oramai talmente interdipendente, la Grecia non è una crisi, ma una crisi europea a tutti gli effetti, e finalmente lo si è capito. Quindi io penso e spero che questa volta la consapevolezza dei governi sia tale per cui alla fine, come sempre in Europa, ci si decida a fare il classico passo in avanti. Però è una speranza, non è una certezza, e dietro questo problema secondo me ce n'è ancora un altro di cui si parla poco, cioè il rischio che l'Europa si spezzi. Moneta unica, mercato unico, questa è un po' stata l'equazione, e nel mondo globale è il minimo col quale l'Europa può immaginare di sopravvivere. Ora però questa tendenza ad integrare sempre di più la zona euro, cosa che è normale, è naturale, è dovuta, tende, diciamo, a staccare il resto dei 27 rispetto ai 17. Naturalmente i 27 non ci stanno, ma non vogliono in larga parte entrare nella moneta unica, e dunque anche qui rischia di esserci in un prossimo futuro un grosso showdown, che non so come si concluderà. Naturalmente l'Inghilterra è sempre nell'occhio di questo ciclone, perché è l'Inghilterra in fondo il fattore anomalo in tutta questa equazione. Però ecco, una moneta unica ha bisogno di mercato unico, e il mercato unico in un futuro prossimo rischia comunque di vivere una burrasca analoga a quella dell'euro, anche se non con lo stesso impatto, diciamo, dell'euro sui mercati finanziari, ma con un impatto strutturale molto grave sull'Unione, secondo me. Grazie molte ad Adriana Cerretelli. Io sottolineo a tutti che quando Adriana Cerretelli dice è un passo che ha comunque realizzato la convergenza franco-tedesca intorno sia alle proporzioni del taglio del debito greco, sia al meccanismo dell'FSF, secondo me ha pienamente ragione, perché era la convergenza politica quella che mancava. Naturalmente il dettaglio e il diavolo sta nei dettagli tecnici, e vedremo. C'è un punto di fondo qua, punto di fondo che non vede il passo decisivo verso l'Europa politica, qual è? E che nel momento nel quale si adotta un meccanismo volontario per cui le banche ci devono rimettere almeno 100 miliardi di debito greco, e questo meccanismo volontario, tenete conto, a molte banche che si erano controbilanciate oramai con i CDS, cioè controassicurandosi, avrebbero preferito un meccanismo diverso da quello volontario, un meccanismo coatto. Naturalmente un meccanismo coatto avrebbe amplificato sui mercati l'effetto della decisione del semi-default a questo punto greco. Punto numero uno, bisogna valutare questo sugli asset bancari europei rispetto alla ricapitalizzazione delle banche, come e se avverrà e con che proporzione di capitale pubblico. Seconda questione, il vero punto politico è che nel momento nel quale si danno più risorse attraverso la leva finanziaria all'FSF, al Fondo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria, per sostenere sia i titoli dei paesi in difficoltà, sia per far fronte agli aiuti ai paesi diretti in difficoltà, ed eventualmente anche ad avere un ruolo nella ricapitalizzazione bancaria, non si chiarisce però chi è il garante di ultima istanza di fronte a queste operazioni fatte con il leverage. Juncker stanotte ha detto: ma queste sono le operazioni ordinarie con leve molto più alte che le banche fanno da secoli. Certo, ma le banche hanno dietro la garanzia di un prestatore di ultima istanza, la banca centrale, il fondo monetario. Qua invece sono direttamente gli stati che si mettono a fare questo. Con quale garante di ultima istanza dietro? E qui la domanda è: o con una politica fiscale comune, ma non c'è per il momento, oppure con la BCE. La BCE molto restia, giustamente Draghi ieri ha ripetuto che bisogna stare molto attenti a che la BCE continui a fare questo ruolo che ha svolto nell'emergenza, perché di fronte non ha un politico e un debito comune, e quindi da questo punto di vista ci sono ancora grandi incognite. È inutile pensare che questo meccanismo, l'accordo di questa notte, risponda a tutto, è un passo avanti, ma noi abbiamo la pubblicità. Sentiamo qualche ascoltatore italiano come la pensa della parte della lettera dei nostri impegni assunti dal governo. Ripeto, la parte dell'occupazione è quella più nuova, perché sulle pensioni in realtà si tratta semplicemente dei dati dell'attuazione a regime delle modifiche dei parametri automatici. Non c'è nemmeno l'impegno a anticipare l'attuazione della parificazione del tetto previdenziale per le lavoratrici donne tra pubblico e privato 65 anni. A leggerla bene non c'è neanche quello. E per quello che mi riguarda, la delusione massima su questo punto, che è un punto anche di equità intergenerazionale, oltre che capace di generare migliori saldi anche fino a 40 miliardi se la si fa bene in due anni, concentrata la parte dell'azzeramento della pensione di anzianità, tutto fatto perché i due terzi delle corti annuali stanno a nord, e l'onorevole Rosi Mauro ritiene che questa sia la priorità fondamentale per il paese, è la mia massima delusione della lettera al governo italiano, come lo è l'ammontare delle dismissioni, perché un punto di PIL in tre anni è una piuma, ripeto, rispetto al peso del debito italiano e a quanto resta nelle mani del patrimonio dello Stato. Quindi secondo me si conferma la linea che si può cedere così poco, perché alla fine bisognerà prioritariamente chiedere agli italiani. So che molti pensano che la patrimoniale sia una buona soluzione, per me è lo Stato che ha fatto i debiti, lo Stato finché ha patrimonio da cedere ne deve rispondere lui invece che chiedere a me, però so che in questo sono minoranza. Sentiamo come la pensate voi. Dino da Padova, prego Dino. Buongiorno Giannino, come lei sa già ci conosciamo. sono un imprenditore e io sono deluso delle liberalizzazioni e non concordo per niente con il quadro che dipinge Ostellino, e cioè che ci sarebbe stata una contrapposizione ideologica. La realtà dei fatti è che questo è un liberismo praticato da persone che cianciano di liberismo e poi non lo attuano mai. Se lo Stato si trova in crisi è perché i soldi dello Stato sono stati mangiati da imprenditori collusi che li hanno sprecati. Quindi non è un problema di statalismo, di privatismo, è un problema di onestà intellettuale anche da parte degli imprenditori, di quella parte di imprenditori che sono protezionisti anche se in pubblico cianciano di liberismo. Questa è la realtà dei però fatti. Io su questo poi lo risentiremo, ma guardi che più Ostellino ha scritto in termini più o meno analoghi proprio pochi giorni fa sul Corriere, quando il Corriere ha randellato l'editore di questa radio, però lo risentiremo. Gastone d'Arezzo, prego Gastone. Sì, buongiorno, io invece sono totalmente d'accordo con l'analisi fatta da Ostellino. Sono anche d'accordo con lei, Giannino, quando dice lo Stato ci ha messo in questa confusione, in questo caos, insomma, in questi danni, e allora rimedi con il suo patrimonio, ma in termini molto più accelerati, non quella pochezza anno per anno. Così. Poi sono d'accordo con lei anche sulla questione dell'occupazione. Qua da noi in Italia ci sono i sindacati che fanno più danni che vantaggi per la gente che lavora. Prendiamo esempio dalla Cina. No, c'è ancora un sistema comunista che comanda, però sul mondo del lavoro hanno scelto l'economia di mercato e lì i sindacati non ci mettono bocca, e la Cina, beata lei, così fa quelle grandi cose ogni anno, così delle crescite enormi e spaventose. Lo so Gastone, però il comunismo di mercato non credo che sia la nostra portata. Emilio da Milano invece, prego Emilio. Sì, buongiorno, buongiorno Sanino. Prima di tutto io avevo, però vorrei solo ricordare ad Ostellino che nel Novecento c'è stato anche il neoliberismo, Milton Friedman, i Chicago Boys, forse lui se li ricorderà. Certo, lei. Ce li ricordiamo bene. E sono quelli che hanno combinato. No. Emilio, pensiamo diversamente. Emilio, io l'ho sempre detto e io rispetto e glielo faccio dire, ma con la premessa che io da due anni tento di spiegare ogni giorno, e ripeto, ora l'ho solo interrotta, ma è un dialogo e quindi lei continua adesso a esporre il suo punto di vista, che rispetto al punto di vista dominante, quello per il quale questa è la crisi figlia del liberismo e di chi pensa che i mercati si autoregolano e sono razionali e così via, da parte mia, il mio tentativo minoritario è di dire no, questa è una crisi figlia di dei regolatori, figlia di chi ha abbinato alla banca commerciale ordinaria quella di investimento senza adeguare alla seconda attività che è più rischiosa, la disciplina di coefficiente di vigilanza. Questa è una crisi figlia dell'enorme liquidità fatta dal regolatore della banca centrale americana Greenspan. Questi sono errori dei regolatori, non dei liberisti e dei mercati governati da sé. Ma io capisco, Emilio, che ci sia chi dice neanche per idea questo, voi tentate di venderci fumo. Emilio, prego. Grazie, volevo infatti, era quello che volevo dire, c'è stato, qualcuno se l'è dimenticata questa cosa, a me sembra, molto probabilmente la pensiamo in un'altra maniera, però qualcuno se l'è dimenticato, vorrei ricordarlo, specialmente ad Ostellino. Poi per il resto io penso che questa crisi sarà pagata ancora dalle stesse persone, perché alla fine io sono un artigiano, molti dipendenti pagheranno anche questo, perché la storia del licenziamento, come fa un imprenditore, va a produrre da un'altra parte e poi chiede lo stato di crisi nel posto dove teoricamente, guardiamo cosa sta facendo Marchionne, no? Cioè il problema è quello, il problema è che come al solito pagheranno le stesse persone che hanno sempre pagato, e gli stati fino a prova contraria hanno anche pagato, guarda caso, il problema grosso delle banche che avevano dato soldi, non si sa bene a fare cosa e a chi, e si sono ritrovate i problemi che hanno a dover essere salvate guarda caso dal pubblico dagli stati. No, ma capisco, questa è la controlettura di chi sostiene invece no, siete voi liberisti, voi mercatisti che avete fatto il guaio. Intanto i mercati valutano positivamente i termini dell'accordo europeo di questa notte, in questo momento il FTSE MIB è sopra il 3% di aumenti, sono i bancari che vanno forte, quindi evidentemente il mercato prezza bene l'effetto combinato del meccanismo volontario di perdita fino al 50% del capitale pubblico greco nelle mani delle banche e il sostegno delle capitalizzazioni fino a 100 miliardi per le banche. Allora, Piero Ostellino, ha sentito le prime reazioni, sono aperte a ventaglio, c'è chi gli dà ragione, c'è chi le dà torto, In realtà, se andiamo a vedere alla prevedibili reazioni italiane su questa parte, soprattutto che riguarda il lavoro nella manovra, lei che cosa pensa che avverrà? Beh, innanzitutto è un errore farne una questione ideologica tra statalismo e liberismo, a parte il fatto che io non uso la parola liberismo perché la trovo orrenda, chiamiamola liberalismo economico oppure libertà di mercato, ma comunque farne una questione ideologica è sbagliato. E quindi facciamo un esempio concreto, semplice. In Italia si discute da 20 anni, da 30 anni, la questione pensionistica. Si è finito col confondere la previdenza sociale con l'assistenza sociale, si è fatto pagare alla previdenza sociale i contributi dell'assistenza sociale persino contro un articolo della nostra Costituzione, e a nessuno è venuto in mente che il sistema contributivo previdenziale è quello più liberale. Perché? Perché non c'è più bisogno di fissare una data di uscita dal lavoro, questo lo deciderà il lavoratore sulla base dei contributi che ha pagato, e cioè in altri termini la massimizzazione della libertà individuale, ma anche evitare che sia lo Stato a decidere di volta in volta, allungando, accorciando, trovando delle soluzioni dirigistiche alla questione previdenziale. Cioè si tratta di ritornare su un piano empirico, cioè uscire dagli ideologismi. Per quello che riguarda poi il problema dell'occupazione in Italia, cioè anch'io sono d'accordo che bisognerebbe liberalizzare al massimo il mercato del lavoro, però ovviamente offrendo delle garanzie economiche a chi esce da questa condizione, cioè chi lascia il lavoro avrà delle garanzie che gli consentano per un anno, due anni, quello che diavolo sarà, di poter sopravvivere mentre va alla ricerca di un nuovo lavoro. Cioè la rivoluzione di Marchionne è una rivoluzione molto semplice, cioè, lui ha detto semplicemente: a me non conviene più produrre delle automobili in Italia perché mi costa troppo produrre delle automobili in Italia, e quindi preferirei produrle da un'altra parte, a meno che non cambino le relazioni industriali in questo nostro paese. Ma che cosa è successo? È successo che di fronte ad una proposta del governo, l'articolo 8 se ricordo bene della manovra, in cui si tendeva appunto ad una certa liberalizzazione del mercato del lavoro, Confindustria e sindacati si sono messi d'accordo per vanificarlo, cioè vuol dire che continua ad esserci in Italia una politica e una cultura consociativistica tra il mondo dell'imprenditoria organizzato, cioè organizzato nella Confindustria, e il mondo del sindacato organizzato nelle grandi confederazioni del lavoro. Beh, si deve uscire da questa logica. Cioè io quando diventò presidente della Confindustria Luca Cordeiro di Montezemolo, scrissi sul Corriere della Sera che l'unico modo attraverso il quale lui avrebbe potuto passare alla storia come un grande presidente della Confindustria sarebbe stato quello di sciogliere la Confindustria. Perché la Confindustria, cioè la lobby, o meglio la corporazione centralistica degli industriali, fa il pari con le corporazioni centralistiche delle confederazioni sindacali del lavoro, e il prodotto sono i contratti collettivi, che valgono a Varese come a Reggio Calabria, dove le condizioni di vita sono profondamente diverse, e poco per volta si è cominciato a capire che invece bisogna arrivare a dei contratti di carattere aziendale, di contratti di carattere locale, a seconda delle condizioni economiche e finanziarie del posto. Ecco, cioè se l'avessimo pensato prima forse avremmo evitato un sacco di guai. Cioè evitare di fare la contrapposizione tra statalismo, dirigismo e libertà economica un fatto ideologico, bisogna scendere sul piano empirico. Quello delle pensioni è uno, quello della liberalizzazione del mercato del lavoro con le eventuali garanzie per i lavoratori è un'altra. Cioè si tratta di fare questo, non di fare una contrapposizione di carattere ideologico. Io devo dire, condivido l'osservazione di Piero Ostellino, per la quale infatti, per evitare che adesso l'annuncio della mobilità e uscita dal perimetro della pubblica amministrazione dei dipendenti in eccesso provochi immediato caos e tornado, perché io scommetto che su questo si appunterà il più delle reazioni, a parte relativo al pacchetto lavoro di tutti i nostri obblighi europei, e allora su quello bisognerebbe automaticamente dire che ovviamente lo si fa nel contesto di un ripensamento generale degli strumenti ordinari e straordinari di sostegno sostegno al reddito, di cui anche in quel caso abbiamo bisogno, per essere chiari, cioè per uscire da una logica del tetto articolo 15, cioè dei 15 dipendenti, abbiamo bisogno di mettere mano a un ripensamento generale degli strumenti di integrazione al reddito. Detto questo, come ha sentito l'ascoltatore milanese, ma è ovvio, Piero Stellino in realtà sulla collusione di una parte del mondo imprenditoriale la pensava come lui, la libertà di questa emittente è di quella di parlare male anche dell'editore, per così dire. Intanto io ora ringrazio e saluto Piero Stellino, perché andiamo alle informazioni sul traffico e dopo abbiamo Dimitri Deliolianes, che tutti gli italiani hanno imparato a conoscere in questi mesi come il giornalista che più ci informa sulle conseguenze in Grecia anche dell'accordo di questa notte, perché non dimenticate che in Grecia le lacrime e sangue continuano a procedere settimana dopo settimana, e ancora la scorsa settimana Papandreou, il capo del governo, ha dovuto espellere dal PASOK, dal partito, uno dei 5 deputati che gli garantivano la maggioranza, perché in Parlamento non aveva votato integralmente le clausole del lacrime e sangue aggiuntive. Vi ricordo in tema di liberalizzazione che nella lettera ci sono scadenze e tempi sui quali ovviamente accetto scommesse, ma comunque l'indicazione per esempio del rafforzamento della concorrenza, senza indicare in che termini, ma comunque sono questi indicati nella lettera. Per quello che riguarda l'acqua, quello del recente referendum che ha detto che la volete tutta pubblica, niente concorrenza dell'acqua, 3 mesi dice il governo, entro 3 mesi fa le norme per rafforzare la concorrenza, nei rifiuti 6 mesi, nei trasporti 6 mesi, nelle farmacie comunali 12 mesi. Vedere per credere, molti ascoltatori dicono ma questo in realtà più che un adempimento delle richieste venute dall'Europa è un programma aggiuntivo alternativo di governo per durare fino al 2013. Io devo dire in molti punti concordo con questa osservazione. Io avrei preferito 3 cose secche: una di abbattimento del debito, una sulle pensioni e una di privatizzazioni e liberalizzazioni, mentre invece effettivamente questo range di provvedimenti annunciati con scadenza per 2 anni fanno pensare a tutt'altro. Ma sentiamo in realtà da Dimitri Deliolianes, ripeto, l'autore anche del libro Come la Grecia, oltre che corrispondente della TV pubblica ellenica RT, la Grecia in queste settimane. Noi abbiamo letto, sì, ma sempre con meno attenzione, dell'ondata di scioperi generali. In realtà i greci stanno tenendo nel no alla protesta, oppure la rassegnazione di fronte all'inevitabilità delle misure aggiuntive sta iniziando a prendere piede? E cosa vuol dire per i greci anche la portata di riduzione al 120% con perdita da parte delle banche che hanno fatto credito alla Grecia? Come vedranno i greci questa mattina questo accordo, in loro favore oppure no? Beh, cominciamo dalla protesta. La protesta è un po' un rituale in Grecia, cioè si fa, c'è qualcuno che ci crede veramente che le cose possano cambiare, ma io credo che la maggioranza dei lavoratori, che giustamente protestano perché hanno tutti i motivi per protestare, poi alla fine nel fondo del loro cuore sappiano che insomma le alternative alle misure attuali siano veramente molto molto poche. E rispetto all'accordo di ieri sera le dico questo: sicuramente è accolto positivamente perché si toglie un grosso peso dal groppone del paese e insomma è più facile saldare, no, questo un debito dimezzato sostanzialmente. I problemi, quello che preoccupano i cittadini in questo momento sono 2 cose. Prima cosa è il debito, la parte del debito che è in possesso dei fondi pensionistici assistenziali greci, che è consistente. Il Papandreou aveva chiesto ieri ai partner europei di escludere i fondi pensionistici assistenziali da questo haircut, in modo che continuassero ad avere il valore nominale precedente, insomma prima del taglio di capelli. Io non sono proprio informato su come sia stata regolata la cosa, ma da quello che sento i colleghi della mia televisione giù, neanche loro, effettivamente è un particolare che ancora non è stato... No, infatti ti confermo, allo Stato non lo sa ancora nessuno qual è l'elenco preciso dei soggetti intermediari che sono sottoposti al taglio di capelli e chi no. Esatto. Seconda cosa che preoccupa l'opinione pubblica greca è questo, chiamiamola così, questo controllo permanente che sarà imposto nel caso della Grecia. Di fatto è già imposto, che diventerà ancora più forte secondo l'accordo di questa notte. Cioè una forte perdita di sovranità che, diciamocelo, in altri tempi, in altre circostanze forse avremmo salutato come un passo deciso in avanti sulla via dell'unificazione anche politica dell'Europa, però il fatto certo in queste circostanze diciamo che preoccupano un poco. Infatti Papandreou è arrivato a Bruxelles dicendo che questa è la linea rossa dietro la quale lui non poteva recedere, anche perché comportava sconvolgimenti politici all'interno del paese, quindi insomma metteva a rischio la stabilità politica. Poi nei fatti questa mattina ci siamo svegliati e abbiamo visto che invece è passato tranquillamente, anche perché la Merkel l'aveva promesso ai suoi deputati, per cui ecco, bisogna vedere un pochettino che cosa significa nei fatti, perché ripeto, già la politica economica della Grecia da due anni è dettata dalla troica. Adesso bisogna vedere, e diciamoci anche che i risultati non sono stati molto brillanti, però bisogna vedere appunto d'ora in poi che cosa ha in mente la Merkel e Sarkozy, come le interpretano questo stretto controllo, e ovviamente quali saranno le possibilità di estenderlo anche in altri paesi nel caso. Su questo io ti fermo, Dimitri, perché io vorrei che fosse chiaro a chi ascolta che, vista la quantità dei dettagli tecnici che i mercati saranno chiamati a prima ad apprendere, poi a valutare, poi a apprezzare, noi continueremo a ballare. A oggi, a questo momento, è sotto 370 lo spread, ma non illudetevi, non voglio fare la ruspice di cose negative, ma non è la risposta decisiva, è un passo avanti. Per quello che ci riguarda, il più è fare, lo hanno detto ieri il governatore della Banca d'Italia, lo ha detto il capo dello Stato, io sono ultimo in questa fila. La lettera disegna un orizzonte che fa a pugni con quello che abbiamo visto dell'inoperatività e divisione del governo. Vediamo se tutto sparisce. Io credo di no, e quindi credo che i mercati scommetteranno sul no, e temo che noi dovremo affrontare le conseguenze, perché era crescita, abbattimento del debito, le due priorità vere che ci venivano chieste, non un programma alternativo di intenzioni che fanno a pugni con la realtà di bassa operatività, altissima divisione, fortissima polemica, ricercata apposta da questo governo per sviare l'attenzione. Questo è il mio giudizio, vedremo se ho torto, e io me lo auguro. Buongiorno a voi, Linea Giornale Radio, appuntamento a domani.